i tuoi occhi in affitto. A cui hai cambiato colore. I sorrisi di carta. E con tutto il mio dolore. Mi guardava piangendo, chiedendo un perché. Rispondevo, tu non sei mio padre, cosa vuoi? Lasciami stare, e lasciami. Mai un grazie, la gente ruba poesie, ma un dolore e un rimorso o un sussulto di malinconia. Piangi e rivuoi indietro il mio amore, e fuori, fuori c'è chi ascolta senza capire. Amore, non ho peccati. Superiore.